Wall Street, i viaggi del lupo. Eccoci, ci siamo per una nuova puntata di Wolf Trips. Questa è la numero 10. Vedo Tony che cosa fa? Perché fai così con la testa? No, niente. Ok, ok. E il nostro programma ci accompagnerà in 2 ore di musica settimanale profondamente underground, presa da brani delle net label più vari e più disparati. Saluto la Cri al microfono. Ciao. Che per oggi è catturata, penso, dalla partita. Per quello che oscillavi. Tony all'altra parte, dall'altra parte del microfono. Poi ciao, abbiamo ragazzi. Fabio, ragazzi. Il disturbatore. No, non è vero, adesso si preparerà con i suoi jingle. E la Debora. Ciao De. Ciao. Stasera siamo molto pochi come l'altro. No, dovrebbe arrivare anche l'altro Fabio. L'altro Fabio. E poi, tra l'altro, stasera abbiamo anche un ospite che a me piace molto. Che sono. Vabbè, li preannuncio, dai. Solitamente faccio sempre un po' di suspense. Sì, no, l'ho già scritto sui social. Sono i Sardinia Bass Legalize. Okay. Che a me non dispiace, è un bel gruppetto. Ce l'avremo al telefono, perché ovviamente loro sono della Sardegna, penso. Beh, sì. Sarà un po' difficile venire qui. Dietro l'angolo. Sì, infatti, chi non si vuole fare una vacanza qua? No, magari noi andiamo qua? In Sardegna, ecco. Forse, chi non se la vuole fare, dai? Forse se noi andiamo in Sardegna è un po' più divertente la storia. Va bene, iniziamo subito con... I contatti. Iniziamo subito con i contatti, bravissimo. Intanto li sale io. Vai. Allora, potete scriverci al numero 340 136 17. Questo numero mi è nuovo, 340 100 3617. Ti piace come numero? Sì. E poi in realtà ci potete vedere in diretta su Facebook, sulla pagina Facebook di Wolf Trips, o ascoltare in podcast o nell'etere. Nelle varie diciamo, radio, facciamo poi così. Sulla pagina di Wolf Trips ci sono tutti i link per fare tutto quello che volete fare. Bene, iniziamo subito con un brano dell'etichetta Sleepy City. Ah no, aspetta, cosa ricordiamo vuoi dire? Che siamo anche su Spotify. Sì, siamo ovunque. Spotify, anzi no, devo dire una cosa importante. Poi chiudo questo preambolo di contatto. Mi ha superato 1000 follower su Mixcloud, che è un risultato veramente notevole, devo dire la verità. Grazie ragazzi. Quindi potete ascoltare tutte le puntate, probabilmente anche forse dalla prima che avevo fatto. Quindi proprio una roba vecchissima, bruttissima, però vabbè, c'è anche quella. Beh, ho visto l'evoluzione. Vabbè, ci sta. Stavo dicendo, ascoltiamo il primo brano che è dell'etichetta Sleepy City, quindi è un'etichetta città dormiente, è una delle etichette abbastanza nuove tra virgolette a Wolf Trips. E su questo sito qua, Discogs? Sì, è una net label, quindi non è un'etichetta. E andiamo ad ascoltare un brano di Cryptic Universe. Bravissimo, stasera. E il brano si chiama Jazz Cops, e quindi, come introduce un po' il titolo, è il genere future jazz. No, perché mi sembrava visto, avevo visto un titolo che sembrava sardo. No, effettivamente l'album è Passau del 2011. Ma questo è il brano è Passau. E invece il brano si chiama Jazz Cops. Thank you. questo brano viene direttamente dalla Germania, diciamo del 2011. Questo forse non ti dispiace, dai. Questo è Future Jazz, lo chiamano Future quindi, Jazz. Quindi un mischione tra l'elettronica e il jazz. Io direi una mischione, chiamiamolo Mix One. Mix One. Perché? Mischione. Non l'avevo capita. Devo ancora ingranare la marcia. Siamo proprio all'inizio, quindi siamo ancora acerbi di battute. E passiamo subito invece da un'etichetta. Facciamo subito un salto da un'etichetta all'altra. Caro Fabio Anco, che sei un po' lontano dal microfono, però non ti si sente da qui. Il prossimo brano è della nostra amatissima etichetta Block Sonic. Non dico molto, in realtà volevo solo anticipare che una cosa che ci tengo tantissimo, la sto lanciando anche in giro su internet, la nostra, diciamo, il tuo awards delle etichette. Sicuramente la Block Sonic non mancherà, ecco quello che volevo dire. Ma te fai troppi spoiler, cavolo. Non ho detto niente. Però dai, la Block Sonic, no, ma dico, tutto sommato, la tua simpatia si capisce dove è. La simpatia, perché vabbè, fa dei brani belli, a me piace, non devo fare. Continuiamo. Salutiamoli. No, loro ci seguono sempre, devo dire la verità, sono sempre in linea, ma anche i loro artisti vedo che commentano, condividono. Meno male, dai. E fanno molto. Il brano che volevo farvi ascoltare è un brano di Arek e se non erro si chiama, sì, è lui, Obituary of a Cell Out MC. Mi sono preparato stasera con l'inglese, visto che la puntata scorsa sono stato un po' carente di inglese, ho detto ma ho fatto un corso accelerato. Il titolo non è proprio il massimo della simpatia, però. No, non è il massimo della simpatia, il genere è sempre sull'hip hop ed è contenuto in questa compilation che loro facevano queste compilation periodiche. Questa è la Netblock volume 33. Volume 33. Ah, bravissimo, l'hai detta. E qua siamo il collegamento col brano precedente, perché siamo sempre nel 2011. Non c'entra nulla il genere, però tutto sommato ci sta. Andiamo a ascoltarlo. ABC, bring it in like this. C be the D to F, flowing in like a breeze, distinctly fresh. French girls want my creme fresh after I bench press 100 reps since I rhymed about Anhesh. With my boy Benediction in the peak, learning to speak freak over beats unique. Splashing in the fish pond and moving some feet as Simon B does the cuss, we're rapping heads like seats. A taste of things to come, enough pineapple juice, man, just asking mum. It was all about the puns and never the guns, and we'd rather chomp up plums than glorify funds. And it's like that, Benediction goes east, Simon B goes bike, man. Found CRP and opens a bike shop, I moved to PA, but I still got the mic rock. BBC is down with this, that's why the party people get down to this. PA hits, bounce to this, everybody out there just bounce to this. ABC is down with this, that's why the party people get down to this. PA hits, bounce to this, everybody out there just bounce to this. Then the next chapter, moving in with the girl who's got the X factor. Wonder blue skies and I'm feeling alright, and when the sun goes down I hit it open mics. Making waves in P-Town, Oofalos, that's team and champion sound. Hitting up with Dito, kids sing a song, yo it's non-stop heat, yo. Doctors there for their patients, dropping EP but we're lacking patience. Geeking round his head, fuck, things got fucked up and friendships got shook. Maybe, that's just the way the world works. Or maybe, I've been a fucking jerk. With all this work, yo, I've lost the plan. But whatever happens, man, it's still fam, yeah. Yo, man, yo, change the beat up, man. Change the beat up. I want some heavy shit. What's up, yeah. ABC is down with this, that's why the party people get down to this. PA hits, bounce to this, everybody out there just bounce to this. TT is down with this, that's why the party people get down to this. PA hits, bounce to this, everybody out there just bounce to this. Move to the next scene, flashback to an era when I met that team. Enter Joker, beatbox extraordinaire. Heat since I had E Honda hair. 100 and slap the first cut. Was live as fuck and I'm still warming up. Then we grab two mics, summer 2009, we're airing out the car. And here I am, I'm still TT man, still bonafide fam. Still head fuck and I'm still defining. Still looting all the clouds of the silver lining. Then I wrote this hook, the shallowest shit that ever graced my rhyme book. Kinda strange joint for a party, obituary of a sellout MC. ABC is down with this, that's why the party people get down to this. PA heads, bounce to this, everybody out there just bounce to this. ABC is down with this, that's why the party people get down to this. PA heads, bounce to this, everybody out there just bounce to this. Yo, Eric is down with this. intanto volevo fare un po' di saluti, visto che abbiamo un po' di assenti oggi che fanno il compleanno, però, quindi mi sembra giusto salutarli. E gli facciamo anche gli auguri. Facciamo gli auguri, non mi ricordo quanti mi ammazzano. Salutiamo Katia e Sara. E li fanno doppi? No, li fanno uguali, li fanno uguali, non li fanno doppi, quindi... Poi volevo salutare in realtà Simone, che abbiamo avuto come ospite, che ci, ciao, sente, Simo, ci segue sempre, mi ha mandato anche un po' di brani, qualche mixato che passeremo poi nelle prossime puntate, nelle prossime giornate, dai, nelle prossime... Sì, sono andato a vedere... È andato a vedere i Prodigy, perché ho visto un'infinità di video che ha messo, non poteva non andare a vedere. No, e non continui a fare così, pensavo che volessi dire qualcosa. No, era un messaggio subliminare, vai tranquillo. Intanto sono partiti i paparazzi in studio. Ancora. Tra l'altro, mi ricordo, io ho riascoltato il podcast della settimana scorsa e stavamo parlando che la Deborah utilizzava ancora il cellulare che non era quello nuovo. Invece e invece questa settimana ha il cellulare nuovo. Sì, sì, è vero. Spero che abbia imparato qualcosa. Quindi deve divertirsi un po'. Su Instagram ho scaricato un paio di applicazioni che vanno, diciamo, parallele, no? Per capire, sai, queste cose dei filtri. Ah, sì. Mamma mia, c'è un casino, sa. Poi mi sembra che più la cosa è stupida e più mi sa che prende. Probabilmente sì. Comunque, il brano che mi hai ascoltato prima era un genere più sull'hip hop, visto che ci eravamo spostati un po' dal jazz all'hip hop. Invece continuiamo su questa linea con il brano successivo, che vi invito ad andare a vedere un po' la copertina del CD, che è di Pot C, e il brano si chiama Mick Ale J. Ed è praticamente estratto da una sua compilation, penso la prima che aveva pubblicato con la Block Sonic del 2016. E vabbè, è un po' strana la copertina. Però perché... è carina, eh? Sì, è bellina. Lui bellina. No, però. Vabbè, lui no. Lui... Ah, Pot C, come si chiama così? Pot C, Pot C. Però è bella l'idea di fare questa immagine. C'è lui, alla, diciamo... Instagram, no? Infatti quello che volevo dire prima, sembra un collage di... Sì, sembrano, cosa sono, delle birre, cioè ha degli occhiali a forma di birra. Sì, tra l'altro è già così, è già è simpatico. Sì, no, è molto simpatico, molto simpatico. Tra l'altro volevo ricordare anche che ci possono seguire anche sull'account Instagram e Facebook. Sì, tra l'altro ci sarà sicuramente la nostra social media manager che avrà aggiornato qualcosa su Instagram. Dopo andiamo a vedere. Io ho paura. Hai paura? Sì, fai bene ad averla. Io ho paura. Fai bene ad averla. Va bene, quindi andiamo a ascoltarci Pot C con Mick Ale J. Scotch. And you majored in metal shop. Yo, you better pocket son. About to bust us some shit on yo. Ow. Mic in my hand, put my mind on rhyme. Ill getting spilled, it's about that time. Sparked up, pass the shit right here. Scotch on the rocks and you best get clear. Mike, L, J, Scotch. Busting up bars like a drunk Sasquatch. Mike, L, J, Scotch. Touch my booze and I'll kick your crotch. Mike, L, J, Scotch. Pummel your crew with mics and socks. Mike, L, J, Scotch. Tummy gonna puke on bitches' tops. I'm fucking classy like Maestro. A black tie affair, popping pills with the mayor. Slayer alive till I grind the nerve endings. Knocking out pops from these machines vending. Alcohol drinks, I bait my bike. Get to the front fountain, spray your puke mountain. Counting on you to grin and bear it. You look good and vile, I just ate carrots. For weeks and weeks with the show to aroma. Knock out fools and defy Jerry Combs. Diploma and drunk as fuck on the loose. I'll take the gin. Fuck the juice. You see a P&J, a R2-D2, Obi-Wan on the BYOK, cause plus cloak the daggers. Spadowski philosophies remain the code. Show before told. Bold snap crackle. The crew to rock your house and leave your soul for spackle. Tackle bass masters, raffle grass tractors, just to put a plug on these smug thug actors. Chapters in my journal, flush fools like a urinal. My flame for the hip-hop, now that shit's eternal. Plan flash is going sonic on the bus for Wanik. We put his socks in the hop, in the ox, in the monics. Tonic and elixirs on tap with Jim. Mixes. This team's be a league like the 86s. The blue line with Don Lieber and Kurt Ridley and Harold Sneps and the dude Dennis Berger. Got your family tied up in rehab. We grab cans from your cooler beside your pool. Attend if you camp and I'm rapping up a bender. Michael J. Scott, I'm the one to watch. Your security concerns about your booze pantry. I'm all around bottles. If your eyes dawdle on keeping me scoped, don't get into your dope. No IOUs, just drop. stop you a quote on how much my next visit might require. A light through the park for your ass to get fired. Tired to your couch is about to get dented. And then you should have sick as the booze I rented. Mike, Dale, Jake, Scotch. Busting up balls like a drunk that watch. Mike, Dale, Jake. The sound we make, sound we make, sound we make. Listen everybody to the sound we make. Listen everybody to the sound we make. Listen everybody to the sound we make. Sound we make. No time for fake. Tony, sei in onda, sappilo. Era brutto. Vedo che sei distratto stasera. Sì, no. No, non è che sono distratto, sono guardo un po' i social. Visto che qua abbiamo una postazione molto multimediale per altri fini. Sì. Che lo specifichiamo stasera. Va bene, va bene. Chi ama lo sport sa che stasera c'è un grande... Un grande evento. Comunque abbiamo ascoltato adesso un brano dell'etichetta Dusted Walks, che l'autore è Frenic. Il brano si chiama non me lo ricordo più, aspetta che lo vado a vedere, perché effettivamente non era proprio così veloce e no, non riesco proprio neanche a recuperarlo. Come salutiamo... si chiama? Fabio! È arrivato Fabio, finalmente, bene. Buonasera! E comunque il brano era del 2012 ed è sempre del genere sull'hip hop, magari un pochettino più big beat, un po' più dark. Bene, Fabio, com'è andata la settimana? Tutto bene? Ma il bilancio è positivo, poteva andare meglio, dai. Bene, dai, allora comunque se il bilancio è positivo, dai, ci sta. Quindi siamo pronti, carichi per una bella puntata. Certo, cosa sta succedendo là dietro? No, che... ho avuto una censura in diretta perché ho detto delle cose che non si dovrebbero dire in un podcast. Ecco, però vabbè, noi siamo anche così, dai. Sì, vabbè. Ma sì, buona ecco. la prima, dai. Bene, continuiamo con il brano di Subswara con Smoke Rhythm. È già il tuo inglese è andato a cadere. No. Guarda che me li sono preparati, eh. Secondo me è giusto. Tu che dici? Smoke Rhythm. Bravissimo. Thank you.

Il brano che abbiamo in sottofondo è dei Sardinia Bass Legalize, si chiama Desert Stage. Tra l'altro è stato estratto da, dal loro primo EP che hanno fatto per l'etichetta A Quiet Bump. Ma dovremmo avere in linea uno proprio dei fondatori del, della Sardinia Bass Legalize. Ci senti, Alberto? Sì, vi sento. Ciao, ciao, ciao, ciao Alberto. Ciao. Benvenuto sul nostro programma Wolf Trips. Presentati un attimo, presentateci un po' il tuo progetto. Sì, guarda, il progetto Sardinia Bass Legalize nasce nel 2006 per volontà mia e di Sensitive Dub, che è l'altro produttore. Niente, è nata come crew di produttori fondamentalmente, quindi abbiamo cercato di riunire all'inizio le produzioni fatte singolarmente, poi nel tempo si sono fuse nelle release successive e poi le abbiamo composto assieme stessi. In questo caso il Desert Stage, per esempio, il pezzo è stato fatto totalmente da, dall'altro produttore, al Sensitive Dub, io mi sono occupato solo delle chitarre. In futuro poi nell'altra release abbiamo unito le energie, abbiamo fatto i pezzi in combo totalmente. Ok, ok. Noi abbiamo un bel po' di domande anche, diciamo, sul, un po' sul mondo del, cioè più o meno il vostro genere può essere ovviamente, immagino, legato al dub. Certo, l'origine è quella, sì. Infatti stavamo parlando settimana scorsa del fatto che l'UNESCO ha un po' riconosciuto il reggae come patrimonio dell'UNESCO, no? Sì, sì. Infatti Tony, che qui come voleva chiederti, ragazzi, una cosa, no? Ciao, tutto bene? Com'è? Tutto bene? Sì, no, perché sono entrato un po' così a freddo. Sì, infatti. Sì. No, tu mi dicevi, volevi fargli una domanda. No, volevi fargli una domanda. Sì, no, infatti sono un po' emozionato. Allora, è appunto che l'UNESCO settimana scorsa, tu penso che lo saprai, che patrimonio mondiale è diventata la musica reggae. Se l'hai sentita questa notizia. Sì, no, scusa, c'è un problema di linea. Ah, no, niente, il discorso dell'UNESCO è sicuramente positivo, nel senso che comunque legittima in qualche modo gli sforzi che già esistono nel mondo del reggae ormai. Quindi ho visto delle opinioni sicuramente favorevoli, altre tra i vari amici o comunque discussioni nei forum, altre che sono un po' discordanti, nel senso, per me la mia opinione personale è che sia sicuramente positivo, perché in qualche modo legittima una cultura che diffonde la pace, quindi in qualche modo è in linea con la promozione della cultura dell'UNESCO, quindi è un bel successo, secondo me è stato molto positivo. Bene, andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è estratto da un album che è Vision of My Land. Esatto. Il brano si chiama Malloreddus Western. Adesso stavamo parlando anche di questo fuori onda. Spiegaci un po' cos'è il titolo, visto che guarda, è un po' particolare. Nasce fondamentalmente dal fatto che volevamo fare tirare in su delle sonorità che fossero legate al western. Poi ci sono delle comunità o comunque delle zone qua in Sardegna dove sono stati fatti anche di film western, quindi c'è un po' la cultura western, okay, comunque okay. Anche le Morricone sono ormai patrimonio mondiale, quindi è una cosa che è entrata nella cultura e sicuramente anche nella nostra. Ma allora volevo fare la parodia di spaghetti western e trasformarla in un piatto tipico sardo, perfetto. Quindi volevo in qualche modo portare la cultura tra virgolette internazionale, riportarla a livello locale cambiandogli il nome. Un pezzo che poi ha avuto molto successo, tra virgolette, nel senso che poi è stato anche stampato in Francia in vinile. E poi lo vedo spesso che viene utilizzato per vari videoclip dai creativi che stanno un po' in Francia e un po' in tutta Europa. Perfetto. Ottimo pezzo, sì. Andiamo ad ascoltarlo e poi dopo rientriamo subito dopo. Va bene, ciao. Anche questo era un bel pezzo reggeggiante, possiamo dirlo, sì. Dai, ad ampio spazio. Sì, sì, questa è bella. Ciao, io sono Fabio. Ogni tanto arriva qualcuno di nuovo qua. Ascolta, ciao Fabio. Ciao, stavo ascoltando la tua canzone, avevo una curiosità. Sì. In questa canzone qua, i suoni di basso e chitarra sono suonati dal vivo, messi dentro come traccia audio, oppure vengono da una campionatura già del programma e poi... Allora, le chitarre sono tutte originali che sono suonate da me. Mentre batteria e basso sono costruiti digitalmente. Oh, complimenti, complimenti. Ci sono alcuni campionamenti, per esempio dei violini, presi, non mi ricordo neanche più dove, stravolti, quindi adesso non ti so dire dove li ho presi, però ormai li considero originali miei, nel senso che ci ho fatto molto lavoro troppo, sì. No, mi è piaciuto molto il giro di basso. Sì, esatto. Già è nello stile reggae, che è comunque molto ritmo, però come giro aveva un bel suono, aveva proprio un bel suono. Infatti ha funzionato quello, perché è stato stampato proprio in vinile, perché comunque quando i sound suonano il pezzo e vedono che funziona nel sound system, solitamente viene stampato in vinile e dovrà fare una distribuzione limitata apposta per il sound system, ed è stato stampato proprio per questo motivo, perché il gruppo di batteria e basso, di one drop insieme al basso, tiene la serata, quindi è stato stampato per quello, fondamentalmente fa molleggiare, come si dice, quindi, no? Esatto. Quindi voi suonate spesso comunque live, ho visto avete fatto parecchie date perlomeno. Sì, guarda, poi allora singolarmente faccio dei live comunque con un altro progetto. Con Sardina Bessi di Galate abbiamo fatto delle date importanti, soprattutto al Villaggio Globale con il Professor. Poi abbiamo fatto un tour ad Avellino, comunque nella zona dei ragazzi di Acquit Boom, che una volta che ci avevano prodotti ci avevano anche chiamato a suonare, quindi abbiamo fatto diverse date in quelle zone. Infatti è da lì che abbiamo scoperto quella fine, partendo dall'etichetta, sì, effettivamente, sì, poi sì, da lì siamo arrivati. È stato un appoggio importantissimo quello di Acquit Boom, sicuramente. Scusa, ma il vostro amore per il reggae da dove nasce? Dal vostro mare? La nostra passione per il reggae? Sì. Guarda, io la nostra passione per il reggae nasce, è stata una cosa abbastanza spontanea, nel senso che comunque quando ero ragazzino, come molte band della provincia, suonavo anche rock, facevo tutt'altri generi. Poi è arrivato quest'album di Le Mani Grette nel 1994, Sarà Core, che penso che abbia fulminato un po' tutti, quindi da lì è iniziata un po' la passione verso il dub. Io ho avuto un percorso diverso, nel senso che comunque non ho fatto il passaggio storico reggae dub. Prima mi sono appassionato per il dub e poi ho scoperto il reggae. Quindi ho fatto un passaggio. Ma infatti l'influenza si sente di entrambi i generi, secondo me, nei pezzi. Sì, esatto. Infatti, Sabina Bessi Legalize ha preso quell'impronta, una linea dub che è un po' classica, dub stepper, comunque legata molto alla Giamaica, e poi un'altra linea che è molto più legata alla musica d'ambiente. Quindi si ispira molto alle sonorità sarde, nel senso di ambienti, suoni degli ambienti del territorio. Quindi è molto legata a questa terra in quel senso, soprattutto per gli ambienti. Poi, tra l'altro, adesso ascoltando questi brani, dico anche alle altre persone con cui siamo qua in ascolto, stiamo facendo praticamente un viaggio nei loro vari EP, partendo diciamo dal primo che hanno fatto, e adesso ci spostiamo nel 2010, quando hanno prodotto, sempre con Quiet Bump, l'album EP Timeless, dal quale volevo farvi ascoltare il brano che si chiama What Can I Do for Africa. Immagino che sia qualcosa di collegato un po' col titolo, cioè... Sì, no, in quel periodo stavo collaborando con un cantante senegalese che abita a Farolbia. Avevo sempre la voglia comunque di collaborare con le comunità senegalese del territorio, e ho trovato questa persona che ha girato il mondo, quindi conosce tantissime lingue. Infatti nel testo parla in inglese, come parla in francese, dice delle parole in Wolof, quindi mi interessava molto il suo modo di cantare. Bene, bene. All'interno poi di un genere che comunque non è proprio tradizionale né africano né reggae, quindi si è prestato a questo esperimento e ha funzionato, secondo me. Bene, andiamo a ascoltarlo. Okay. Thank you. cause you like so Africa. Hey, don't give up Africa. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Don't give up, say Africa. Jugger fights a sono sempre un brano dei Sardinia Bass Legalize con il titolo What Can I Do for Africa. Penso che si capiva dal cantato, dal cantato. No, e anche qua stavo ragionando un po', effettivamente non capiamo, è un mischione tra il reggae e il dub anche questo. I suoni però se notavamo che erano veramente belli potenti. Avete diciamo fatto un bel master. Che anche un pilino house. Sì, sì, poi guarda, i suoni sono molto futuribili, nel senso che la radice è sicuramente reggae dub, anche come composta e poi come mixata, nel senso che comunque usiamo delle tecniche molto tradizionali come si usava a Kintab in Jamaica, nel senso una volta che vengono composti si mettono le tracce aperte, si mixa e si fa il dub dal vivo, quello che è il concetto di remix che poi diventerà in altri generi musicali, quindi è l'elemento tecnico che è rimasto tradizionale, poi il suono è diventato futile, quindi si sente la tradizione del dub e del reggae, però l'abbiamo portato un po' avanti, diciamo, come suono. Ok. La domanda è un po' scontata, ma il nome da dove l'avete scelto, da dove deriva? È vero che il nome è nato un po' per caso, nel senso che comunque quando stavamo chiacchierando con Sensitive Dub, l'altro produttore, abbiamo composto una canzone che si chiama proprio Sardinia Bass Legalize. Ed era conteneva tutto, nel senso poi cercavamo di capire che nome scegliere, poi conteneva già tutto il nome, nel senso conteneva la terra, quindi Sardegna, i bassi e il fatto che comunque vogliamo una specie di legalizzazione dei bassi, nel senso che venga diffusa la cultura della bass music, quindi sì. Ha avuto quel senso. Io pensavo a un pezzo di Peter Tosh, Legalize, però vabbè. Sì, sì, ricorda, cioè, ricorda anche quello, sì, sicuramente, si può ragionare anche quei termini. Sì. Intanto abbiamo visto prima Fabio che era proprio lì concentrato sul pezzo, avevi qualcosa da aggiungere? Ah, no. Stavo ascoltando la canzone attentamente come nella prima e come ti ho detto anche fuori onda, cioè, io apprezzo tanto le strutture da musicista di basso che sono sempre interessanti da ascoltare, anche questa secondo me suonava bene, anche sui suoni, su questo stile canzone filava. Pulito. Sì. Ecco, io se non avrei fatto magari tanto la voce così con quell'effetto noise riverberata, ma l'avrei tenuta più naturale. Vabbè, quello è sì, gusti quello personali. Gustibus, come dicevano i latini, no? Sette di mix. Sì. Spostiamoci nel 2012. Allora, l'altro... no, qua già più siamo sui sette brani, lo chiamiamo sempre EP, proprio un EP, Long EP. Sì, da un EP un po' più lungo, sì. Long EP, a metà, dai. Siamo lì a metà. Una domanda che mi era venuta guardando un po' la vostra discografia. A un certo punto poi non avete più prodotto quindi con Quiet Bump, ma vi state muovendo da soli, immagino. Sì, adesso da soli, per il caso di Gravity è stato un po' una cosa uguale, nel senso che comunque ci eravamo proposti con Fabio di... comporre dei brani che restassero caldi, non so, avevamo quel pallino in quel periodo, quindi sì. Praticamente facevamo il pezzo la mattina e lo pubblicavamo la sera. Avevamo abbiamo fatto questo esperimento, quindi è un EP che sono diventati 7 singoli, fondamentalmente poi racchiusi diventati un EP. Una raccolta di EP, con una cosa del genere. Sì, una raccolta di singoli che però ha avuto un senso. Giustamente poi quando le ho proposte da questo mi hanno detto guarda, non possiamo pubblicare dei pezzi che sono già usciti. Ah, ho capito. Una motivazione proprio tecnica, banale, come vediamo, proprio tecnica, sì. Stupida, comunque è andata, a me andata poco così. Devo dirti la verità, è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Andiamo a ascoltare sì. Atlantide. Perfetto. Thank you. E ancora in sottofondo abbiamo il pezzo Atlantide del, dell'EP, non mi ricordo più, porca miseria, ogni tanto chiudo, Gravity, ecco, bravissimo. Cioè, c'ho qua una lista di documenti e poi chiudo sempre quello che va in diretta e mi dimentico che diamine è che sto andando in diretta. Però il brano si chiama Atlantide, quello sono sicuro. Devo dire molto, molto ipnotico e veramente molto bello. Sì. Grazie. A me è piaciuto molto, è piaciuto molto anche tutto il, l'EP del Gravity. Giro di synth molto ipnotico, ripetitivo, ipnotico, no, ripetitivo. Però, sì. Molto profondo come suono, molto dub. Non abbiamo ancora dato i vostri contatti, dove vi possiamo ascoltare? Guarda, la pagina di Facebook è sicuramente quella che ormai si usa di più, quindi probabilmente da lì poi si può arrivare a tutto. Quindi su facebook.com si arriva a Bass Legalize, si arriva facilmente poi a tutti i vari link dove ci stanno. Beh, io una menzione la farei anche su Bandcamp, visto che poi da lì è possibile. Bandcamp, sì, certo, cioè Bandcamp si arriva a Bass Legalize, quello è dove mettiamo le nostre release, no, quelle non uscite con Acquet, invece quelle, le prime tre, quelle uscite con Acquetboom nel sito di acquetboom.com. Sì. Sì, giusto. E l'ultimo, diciamo, EP che avete estratto proprio quest'anno, il 5 novembre del 2018, racchiude in realtà, penso, due singoli, immagino, perché è Glow e Black Tea. Esatto, sì, è come se fosse un 10 pollici virtuale, è un po' quella logica, quindi un pezzo più la strumentale, la dub version, quindi sono due singoli con le dub version allegate. Ok. E anche questo, leggo, comunque è stato sempre masterizzato, penso... Sì, sempre fatto da me, sì. Penso sì, sempre sì, fatto da te, quindi la qualità audio è come i precedenti, visto che comunque aveva una bella qualità, Bel suono. Il lavoro lo impostiamo praticamente, io mi occupo della composizione dello scheletro di musica, nel senso basso e batteria, e poi invece tutti i pad, i synth che sentite sono fatti dall'altro produttore. Da Fabio, perfetto. Siete solo in due, quindi? Sì, siamo in due, e poi c'è un terzo che è il fratello che abita in Inghilterra, che ci dà un supporto sui media e qualche contatto. Ah, beh, l'Inghilterra siamo... sì, patria. Patria, sì, del reggae dub. Può servire sempre, sì, una base. Una bella base. E senti, sì, un'ultima cosa, progetti futuri che avete in generale? Sì, allora, progetti futuri, no, i live sicuramente, anche perché abbiamo bisogno di suonare molto dal vivo, e poi stiamo collaborando adesso, una cosa fresca, ne stiamo parlando in questi giorni, con un chitarrista sardo che si chiama Perry Frank, che si occupa non solo della chitarra in modo tradizionale, suona la chitarra come se fosse un synth, come si dice, un soundscape, quindi molto legata all'ambiente. Beh, interessante. Sì. Questo mi piace. E quindi adesso mi mandare dei materiali a giorni e inizieremo a lavorare su quello. Quindi sarà il prossimo lavoro, sicuramente sarà in quella direzione. Un Tom Morello sardo, mettiamola così. Tom Morello un po' piace, lui è proprio leggero, molto ambientale. Se vedete dei video, fa dei video nei posti più sperduti della Sardegna, all'aperto, nell'ambiente, un bravissimo chitarrista. Guarda, per noi è stato un piacere ospitarti, ospitare il vostro progetto, anzi, quando poi sicuramente avrai qualcosa di nuovo ci risentiamo, certo, che non certo. È male. Ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano e intanto ti salutiamo. E il prossimo brano si chiama Glow ed è estratto dall'ultimo album, come dicevo, EP, dai, raccolta di EP. E noi ci salutiamo e ci sentiamo prossimamente. Ciao! Grazie a tutti! Ciao! Wolf Trips, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. Wolf Trips, alla ricerca delle hits del futuro. Abbiamo ripreso dopo la pubblicità con un brano di Max Cavallera, di un'altra etichetta che a me piace molto, caro Tony, ed è la solita etichetta Brook. Non voglio fare, la solita pantomima, non la voglio fare. Pantomima. Visto che termine colto. Lui è Max Cavallera, questo è un penso a questo punto che sia proprio un album, perché ha fatto 16 tracce. E l'album si chiama Dimension. Ed è il brano che abbiamo ascoltato. Aspetta. Dai, ok. Lay Your Shine on Me. Yes. Qua ci vogliono gli applausi. Ormai sono passati. E entriamo un po' nella fase di club. Fase club, però secondo me siamo un po' nella fase techno molto dark. Ecco. Vedo la che vedo te un sei po' così. Sei diventato molto più cupo. Ma inverno. Inverno. Bisogna coprirsi. Bisogna coprirsi nei bisogna... club a ballare. Ci starebbe. Ce la vedo molto bene come cosa. Intanto che recuperiamo gli altri due che sono in panchina. Ho recuperato sì la sigletta che non l'avevo ancora messa stasera. Sai che? Cia. Sono abbastanza affezionato a queste sigle che ho recuperato in giro. Il prossimo brano è di un'etichetta che non abbiamo ancora forse ascoltato. C'è un puzzle nello schema. Sì, diciamo che la copertina è un po' brutta. Beh, no, neanche male. Allora, lui è Octopus Finger. Octopus Finger. Finger. Finger, hai ragione. Che sono le dita. Le dita, esatto. Ed effettivamente l'octopus è il polipo. Yes. Quindi vedi, effettivamente la copertina è lui che tiene nelle mani un polipo disegnato rosso e nero, tra l'altro. Io credevo che fosse uno di quei serpenti piccolini. Sì, è vero, per i colori. No, in realtà è proprio il polipetto. Un polipetto, bravo. Una polpetta? No, un polipetto. Un polipetto esorcista. Il brano che andiamo a ascoltare si chiama Always a Fear e a detta del sito dove è stato pubblicato, cioè dell'etichetta, anche qua non lo dico io, è Electro House e Dark Disco. Sentiremo un po', poi mi dirai che ne pensi. We'll be right back. Come ti sembra allora questo polipo nelle dita? Io sto ancora ballando, ragazzi. Cioè, mi ricordi quando avevo tipo 20 anni che andavo a ballare in discoteca. Dove che andavi? Scusami. Tanto ormai dai, non so neanche se c'è più. Non so neanche se c'è più adesso. Se non sbaglio, si chiamava Il Maneggio. Che faceva musica più o meno su questa linea, no? Sì. E mi ricordo quelle grandi serate a ballare. Questo quindi era il brano di Octopus Finger. Octopus Finger. Always a Fear. Cioè sempre paura. Always a Fear. Sempre una paura. Paura che ballo. Io. Quindi abbiamo pure proprio paura in questo momento. No, ma lanciamo subito un sondaggio su cosa abbiamo come social. Chi è che poi bravo? Chi è che fa? Il sondaggio su Instagram. Adesso ci provo io, ma non vi assicuro nulla perché sono abbastanza scarso. Ma Katia, mi sa che stasera è un po' presa. Non lo so, non ci sta seguendo. Ci proviamo a fare il sondaggio. Facciamo questo sondaggio. Quanto fa paura il ballo di Fabio? Ecco. Che potete vedere in diretta Facebook dalla nostra pagina di Wolf Trips. Ricontiniamo un po' con questo andazzo techno, dark, electro, club. Che mi gusta, come dicevano nel film La febbre sabato sera. Andiamo nell'etichetta Digital Diamonds. Ho detto giusto, Ma è una spina dorsale? No, credo che sia una spina. È una traccia audio. Allora, aspetta, adesso infatti spiego. Allora, loro fanno queste compilation, si chiamano Digital Family. E ne hanno rilasciata una quest'anno nel 2018. E effettivamente ne ho viste le copertine. Sono una spina dorsale che poi diventa un. Un battito di tipo forma d'onda musicale. È carina l'idea, non è male, non mi dispiace. Penso che sia un palmo muto. Un palmo muto? Perché? Quando suoni a quell'effetto lì. No, beh, ma anche le tracce. Come si fa il palmo muto? Quando suoni la chitarra, tenendo stoppato col palmo della mano il ponte della chitarra. E quindi ha quell'effetto. Adesso non so se abbiamo un palmo muto. Dovresti portare una sera la chitarra giusto per fare qualche cavolata delle tue. No, potremmo fare una cosa. Potremmo fare una traccia di chitarra che magari ci metti lì. E poi lanciamo un concorso qua a Wolf Trips che ci fanno un bel remix. Non mi dispiace. Sai che non è cattivo. Un po' di progetti per la testa ce li ho ogni tanto. Ma tirali fuori dalla tua testa, no, questi progetti. Perché c'è la testa piccola. Ma concorsi. Ma il mio concorso che avevo lanciato è andato a morire. Il tuo concorso che avevi lanciato c'è stato giovedì, ma noi non c'eravamo. Giusto, bravo. Quindi è stato esaurito il tuo concorso. Non c'era nessuno. Che venga qua un uomo che è bello. Grazie, cioè siamo 1, 2, 3, 4 uomini, 4 cessi. Grazie. Vabbè, dai. Su, io voglio qualcosa di nuovo, no? Vabbè, non è che la minestra riscaldata, Fabio. L'unica cosa che possiamo offrirti di nuovo è un po' di musica. Andiamo a ascoltare il brano di Dana plus Brendan Loveless con Discovery. Thank you. ancora in sottofondo stiamo ascoltando One Dub Connection con Coasting. Qua non sento nulla, nessuno che mi dice nulla, quindi... Secondo me è corretto. Bene, bene, dai. Oh, mi sto impegnando un po' sull'inglese, un pochettino però. Sì, un po'... infatti alla sera sei lì con Google Translate. Infatti, da lì. Leggo come le traduce e cerco di farli un po' meglio. Hai installato anche l'applicazione per... Sì. Per fare gli esercizi in inglese, la consiglio a tutti. Potrei fare il testimonial. E il brano è sempre estratto dalla compilation che stavamo ascoltando prima, che è la Digital Family volume 7. Ti piace questa canzone, Dome? Sì, è un po', diciamo, un po' troppo ripetitiva, però non mi dispiace. Ci sta, diciamo, come intermezzo. Sì, fa un po' tipo da tappeto ambient. Bravo. Però hai notato una particolarità. Adesso poi vai. Se senti il suono, sì, di due bassi, perché ci sono due bassi, ce n'è uno molto vattato e okay, poi c'è un altro che slappa con questo molto secco, che insieme fa molto figo. Ah, sì, è vero, ci sono due bassi, hai ragione. Riascoltandola bene. Ma come fa a non trovare una donna questo ragazzo? Ma che parole dolci che dice. Donne, lanciamo un annuncio. Sono single, vi aspetto. Radio Lupo, dalle 8, 8 e mezza, perché io arrivo in ritardo, fino alle 10. Però dobbiamo picchiarti, perché noi siamo in diretta anche su altre radio, quindi va bene, è così, va bene. Sono, diciamo che siamo arrivati a tre quarti della nostra trasmissione, niente, faremo un attimo di pausa e poi riprendiamo subito con un po' di musica. Torna il venerdì Wolf Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi per due ore di musica underground. tra effetti vari, suoni, robe strane, rientriamo un po' sempre sull'etichetta Digital Diamonds. Questo è un brano di Code Therapy, Escape from Reality. Sai cosa mi ricordava? Cosa? Il modem 56k quando si collegava, ragazzi, è lo stesso suono. Soprattutto e io quando si bloccava. E ecco, io che davo i cazzotti sul modem per farlo andare. È vero, sembra una roba molto telefonica questo pezzo. Che tra l'altro poi è un remix di Alik Remix, magari prossima volta mettiamo anche l'originale, giusto per sentire un po'. L'ha fatto col telegrafo. Secondo me invece ho usato invece la fibra. La DSL. No, secondo me effettivamente la fibra tira di più. Bravo. Eccolo qua. Effettivamente, parlando un po' fuori onda, ci sono molti suoni campionati riconoscibili, mettiamola così. Vabbè, però il brano tutto sommato non è male, sembra un po' da tappeto. Già dal primo claps ho capito che cosa ho utilizzato. Non facciamo spoiler. No. Giusto, è giusto mantenere un po' di anonimato anche per gli artisti. Niente, ormai siamo arrivati quasi alla fine oggi. No, vabbè, abbiamo ancora un po' di brani, un po' un di po' cose. Minuti. Ce l'abbiamo, dai. Una ventina di minuti scarsi. Sì, sì. Ma cosa andiamo a ascoltare tra poco? Cioè, anticipaci questo pezzo. Allora, in realtà su questo pezzo, devo dire la verità, non ho trovato molte informazioni. Non lo sa dire. No, effettivamente non ho trovato molte. Da dove arrivano? E se non ho trovato molte informazioni, che cazzo? Insomma. E se non ho trovato, cercali tu. No, veramente, vedi se allora, no, ti dico il nome. Anzi, facciamolo dire a Fabio, che a lui piacciono questi tipi di nomi. Anche l'anno scorso annunciavi sempre questa tipologia di artisti. Quindi quello nella parentesi quadra non lo devo dire, giusto? No, è questo è il nome e questo è il cognome. Ok, mettiamo. Managram. Ecco, Unreal Fields. Infatti, quindi prova a vedere se trovi qualcosa. L'etichetta è sempre Digital Diamonds. Abbiamo fatto un po' un teatrino per la Digital Diamonds. Io mi chiedo una cosa, ma perché a tutti gli artisti, o almeno la gran parte degli artisti, gli stanno sulle balle le vocali? È una moda, lasciano un po', diciamo, di mistero sul nome. Potrebbe essere Monogram, non lo so, può essere qualsiasi cosa. Sì, è vero, Monogram. Ci aggiungi qualsiasi lettera e componi il nome a tuo piacimento. Thank you. Allora, siamo arrivati ad un dunque, no? Prima ci chiedevamo... Aspetta, aspetta, perché effettivamente c'è anche l'intro di questa cosa, no? Che è questa, vai. Ok. Ciao, sono io. Vedi. No, stavo dicendo che abbiamo attivato le nostre spie alla ricerca di... E abbiamo scoperto le vocali. Oh, adesso quindi abbiamo dato delle vocali. Abbiamo dato le vere vocali. A delle consonanti, quindi è proprio il caso di dirlo. Abbiamo sfatato questa voglia degli artisti di fare queste parole contratte. Possiamo dire che siamo arrivati in porto. Bravo, bravo. E qui Grosso Tony ci serve sul piatto d'argento i dicri, come si chiamano? Monogram. Quindi erano le O che mancavano. Mancavano le O. No, anche là. Ah no, manca anche là. Giusto. Beh, ma sono del Portogallo. E quindi. Beh, c'è da dire che in un periodo di spending review, tirar via le vocali potrebbe magari, sai, quando devi scrivere il titolo lo scrivi più corto. Sì, poi noto che registrano con una alta velocità, anche questo gruppo sì. Qua c'ha un 56k sotto che suona. Però, no, infatti vediamo che prima abbiamo sentito. A parte gli scherzi, la canzone è fantastica. Ecco, cioè, stiamo discutendo sulla canzone con Tony, che c'ho qua dietro alle spalle, che cercando un po' su internet danno come genere trance. Sì, Però effettivamente diciamo che forse la cassa è trance, ma il resto è... un po' di tutto, psych tech, non so, questi nuovi generi che escono fuori. Beh, sa più di progressive. Sì, come poi cosa. Ho visto che loro comunque sono su Beatport, SoundCloud, cioè fanno un po' anche, chiaramente, net label, perché sennò il pezzo qui non sarebbe andato. Ok. Sì, allora, la cassa è indubbiamente trance, ma i suoni sono indubbiamente progressive, secondo me. Ok, quello che stavano dicendo. Vabbè, tra trance e progressive la canzone è bella, si ascolta molto bene. Infatti ci ha un po' risvegliato gli animi. Io direi dimmi. Infatti qua c'è scritto psytech, progressivo, psychedelic. Ok. E electronic. Ok, quindi è proprio il mischione che stavano dicendo, c'è dato proprio la Findus, io ho letto anche valzer, non so voi, E quelli a Capodanno, ecco, vanno lì a Vienna. Io conosco solo quello del Moscerì. Ecco, non sapevo io che... Alla fine arrivavamo sempre a una cosa del genere. Continuiamo con un po' di musica, ma io direi che siamo sempre su questo genere qua. Anche perché l'etichetta, come vedete sui nostri schermi in radio, è la Technique. Ma anche perché, siccome aveva lanciato il sondaggio prima, io devo ballare, questa musica mi fa ballare, sennò come facciamo a sapere quanto è brutto il ballo del Fabio? Tanto vabbè. C'è stato un omicidio, un audicidio. Audicidio. Fabio, fai un appello. Chiedi ancora una ragazza che venga qua per ballare con te. Donne, ecco, io vi aspetto qua in radio tutti i venerdì dalle 8 alle 12. Aia! Per ballare insieme a me. Mi sa che una donna non la troverai mai. Ti batte il cuore. Questa voce. Senti questa voce bella rauca. Sentite, non vi state già emozionando alla vibrazione delle mie corde vocali? Ecco qua. We'll be right back. Allora, dal titolo, cioè diciamo dalla descrizione della, dell'etichetta, stiamo ascoltando qualcosa di allucinatorio, con effetti allucinogeni in una, diciamo, in uno spazio nebuloso. Ci ho capito niente. Beh, insomma, allora il brano è di BitFi, Breakpoint Friday Night Mix. E vabbè, è questo. Questo è. È un po' particolare. Una pasticca, diciamo. Sì, sì, ecco. Gli effetti sono molto allucinogeni. Possiamo... E probabilmente per quello che hanno confuso il nostro Fabio. Ecco. Vengono da Amsterdam? No, loro sono italiani. Tra l'altro, li ho contattati più volte per essere intervistati, ma non mi hanno mai. Non ci calcolato. Hanno filato di striscio. Non ci hanno filato di striscio. Ho paura che sia un'etichetta, possiamo definirla quasi fantasma. Nel senso che siamo arrivati troppo tardi. Ho paura anche che già, non è già sia archiviata, più... volevo. Sì, perché non... il gioco di parole. Perché sto seguendo un po' il loro sito ed è praticamente da quando ho iniziato a seguirlo che non hanno prodotto più nulla. Tra l'altro, no. Don't Quit Star. Non so se ti ricordi che l'avevamo passato un po' di puntate fa. Non seguirlo più? No, ma ragazzi, l'hanno fatto apposta. Come ci hanno visto e detto no. Se basta, ci chiamano no. loro, aspettiamo a suonare. È vero. Perdiamo proprio credibilità, ci chiamano loro. No, no, noi scappiamo, noi scappiamo. E vabbè, diciamo che il mix era Friday Night Mix e ci sta, nel senso... La serata giusta. La serata giusta, ecco, non aggiungiamo altro. Che visto questa sera. E noi abbiamo finito, tu cioè, quando sei fuori onda hai mille argomenti, poi entri in onda... ma perché fuori onda sono più me stesso, un po' più pirla del solito, poi dopo... Un po' di contegno, un po' di contegno, un po' di contegno. La gente che ci ascolta, sai, non posso dire questo è un cretino, cioè questo qua è proprio un deficiente, devono pensare, no? Sì, sì, sì, sì. Quello, su questo possiamo dire che sono tutti unanimi. Certo, ma infatti mi arrivano anche le mail. Ciao Pirla, grazie. Ma tu non hai saluti da fare questa sera? Ma questa sera potremmo salutare Ermenegilda. Sì. Azzurra. Sì. Bianca. Sì. Verdolina. Sì, Verdolina è bellino. Verdolina no. Ma messaggi non te ne sono arrivati, no, stasera? E guarda, ce li ho sull'altro telefono che ho rotto. Adesso vi devo raccontare questo, ragazzi. Cioè. Allora, c'è stato, vi do un consiglio. È il secondo cambio di telefono questa settimana. Certo, vi do un consiglio. Quando vi cade il telefono e vi si rompe lo schermo, non andate mai a ripararlo. È una spesa inutile. Dopodiché avevo il touchscreen che andava da solo. La problematica maggiore è stato che ho creato tanti di quegli impeachment e gaff tramite WhatsApp che penso che adesso o mi vogliono arrestare o mi vogliono picchiare. Sappiate che non è colpa mia. Perché partivano le parole da sole. Partivano foto, parole. Aia, magari aia. A volte sembravo dislessico, devo rispondere a qualcuno. Una volta ho scritto a mio padre invece di rispondere a una persona. Mi fa, vabbè, sai, da mio figlio certe parole non le aspetto. L'altra persona che si aspettava qualcosa si stava scrivendo, papà vai a cagare. Ecco, vabbè. Diciamo che potremmo fare una puntata solo sui tuoi messaggi. Certo, ma già la stiamo facendo sulle mie cene, sulla mia settimana. Le sue amiche. Cioè, diciamo che... Bravo. Invece che Wolf Trips direi che lo chiamiamo Fabio Trips. Ah, una vita un po' movimentata, dai. Introduciamo... Ah no, dimmi, scusami, ma prima ma che... Che genere di foto mandavi in giro, Fabio? Beh, ma sai, noi ragazzi abbiamo... tante foto particolari, il problema è che queste foto se vanno a amiche, poi mi dice, sapevo che eri un pirla, ma fino a questo punto no. Al tuo datore di lavoro no? No, lui li aspetta tutte le mattine, cioè, infatti mi fa entrare 20 minuti dopo se gli mando qualche foto. Introduciamo l'ultima etichetta, una delle ultime etichette, degli ultimi brani che andiamo a ascoltare, l'ultima etichetta della serata che si chiama Noisy Beat, che avremo ospite a gennaio, penso un po', già programmata anche la scaletta di gennaio, ve lo dico. Sei avanti. Sono troppo avanti, sono troppo avanti. Noi qua siamo a ritorno al futuro. Sì, lui ha già festeggiato il Capodanno, Sì, sì, ma quello del 2019, attenzione. Certo. Lui è talmente avanti che se si gira vede il futuro. Ecco, potremmo fare un jingle, talmente tante volte lo dice questa battuta. Io adesso ci gireremo tutti quanti dopo questa battuta. Vabbè, comunque l'etichetta si chiama Noisy Beat. È un'etichetta italiana che quest'anno compie 10 anni, penso un po', sempre net label. E ha prodotto delle collection, 2 esattamente. E noi andiamo a ascoltare un brano della volume 1. E il brano è il brano di Kappasaur con Rebird. Rebird, sì dai, l'ho detto giusto. Rebird. Rebirth. Genere, ci cambiamo un po' il genere, dai, andiamo un po' più sulla drum and bass, no? Drum and bass, da fine serata. Thank you. Wolf Trips, I viaggi del lupo. L'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato era di Wright More Bastard, Wake Me Up. Cioè, c'è stata una diatriba qui tra... Sì, sì, il segno più viene... Sì, in inglese il più si dice plus, more o plus o plus. Secondo me dipende. Sì, è vero, beh, sì, dal, se è inglese alto, inglese basso. Sì, se viene da Leeds o se viene da Manchester. Manchester. Vabbè, comunque, devo dire la verità, questa sera è proprio volata. Perché ho già finito due ore. Non mi sono neanche accorto. Volate, volate. Porca, no, sono le 9. Io me ne sono accorta dalla fame. Aspetta che ti lancio una cosa per farti capire le... vabbè. No, vabbè, allora siamo... già io che lo meno. Voi non lo sapete, ma la Cristina mi sta picchiando tutta la sera. Ho preso due sberle, tre calci, due pugni. No, no, ma possono seguirti sempre sulla pagina Facebook, quindi possono vedere tutto. Tra l'altro il video poi rimane anche ai posteri. Picchiate Fabio anche su Facebook. Domani vedi tutti col click, il pugno di WhatsApp. La Madonna. Ecco. Oppure andate a casa sua. No, col cazzo. Abito in Burundi, ragazzi, avviso. Fatevi il viaggio. Vabbè, quello no, dai. Io direi che niente. Siamo arrivati agli sgoccioli. Siamo arrivati ai sgoccioli. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito in diretta o ci hanno ascoltato. Anche tutte le donne che mi hanno sentito. Certo, sicuramente anche come che è Mentina, anche non l'hai salutata. Mentina. Mentina. Ermenegilda. Azzurra e bianca. Mentina non c'era. Sole, luna, stella. Grazie. Questi sono già più belli, dai. È Natale, no, Natale no, è... Pasqua. Grazie. Pasquetta. Graziella. Pasqualina. Annunziata. Io conoscevo la signora Pasqualina, Beh, Pasqualina. La bravissima signora. È una frittata. Perché vuol dire? Grazie, Graziella. E anche a quella lì. vabbè, sì. Bene, quindi potete seguirci settimana prossima o ascoltarci in podcast o in FM quando volete, quando ci siamo, mettiamolo così. Insomma, ci seguono da tutte le parti. Ci seguono da tutte le parti. Adesso quindi... se esco di qua devo stare attento, c'è qualcuno che mi segue. Quindi non fare nessuna denuncia di stalking, perché non è che ti stanno seguendo per qualcosa, però in realtà è solo per... Io sono un bravo ragazzo, signora, cioè... Poi tu mi conosci che sono un gentiluomo. Io sono un bravo ragazzo. Fabio. Vabbè, come al solito il delirio generale, direi che io vi saluto. Saluto la Cri, la Debora, Fabio, ciao. Fabio 1, Fabio 2, la Vendetta e Tony. Ciao. Ciao a tutti, Romy. Ci vediamo settimana prossima. Ciao. Ciao.